Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io mi auguro che un giorno un ex detenuto possa entrare in una banca e essere ricevuto da un direttore che gli dice: ah, lei è stato in carcere, le do il mutuo perché lei è rieducato. O che ne so, che si votino i politici perché sono stati in carcere, perché il cittadino dice: ah, questo è stato in carcere, quindi è rieducato e io lo voto. Mentre sappiamo che per adesso è il contrario, cioè uno prima viene eletto e poi lì viene diseducato e va in carcere. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questo era l'articolo 27 della Costituzione secondo la filosofia dell'attore comico Checco Zalone. Cosa dice questo articolo? Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. E così ha risposto anche il ministro della giustizia Orlando, che lo aveva invitato con un videomessaggio inviato dagli stati generali dell'esecuzione penale promosso dal carcere romano di Rebibbia, proprio da Orlando. Quindi lui dice il suo punto di vista sul carcere educativo Checco Zalone. Ma noi parleremo di molte altre cose, prima di tutto di questo voto, di questi voti sulle mozioni di sfiducia contro il governo che sono ancora in corso. Si pensava che, essendo iniziati così, diciamo, metà pomeriggio a quest'ora. Sentiamo, c'è Gasparri al Senato che sta. C'è ancora la discussione, stiamo, dice Gasparri, Forza Italia, per i mancati rimborsi alle imprese che devono avere soldi dallo Stato. Vi ricordate le scuole da rimettere a posto? I tetti cadono ancora. E vi ricordate tante altre promesse? L'elenco Gasparri, sarebbe quindi lungo. Una serie di critiche al governo Renzi, queste mozioni di sfiducia sono due, una del Movimento 5 Stelle e l'altra del resto del centrodestra, Movimento 5 di Forza Italia e Lega Nord principalmente. Ne parleremo e quello che vi chiedo questa sera è, tra l'altro, visto Renzi ha parlato di sceneggiata, dice inutile perché tanto i numeri non ci sono, dice voi siamo abituati ormai a queste mozioni di sfiducia, un giorno sì e l'altro pure, non siete convinti neanche voi quando lo fate. Secondo voi vale comunque la pena di presentare, quindi poi di votare, delle mozioni di sfiducia contro il governo anche quando si sa che non si hanno i voti necessari? Oppure non ne vale la pena ed è una sceneggiata, una perdita di tempo, come dice Renzi? 349-238-6666, come sempre il numero per i vostri messaggi e per i WhatsApp. Oppure potete scrivere comodamente sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, ovunque siate nel mondo, visto che scrivete qui a Effetto Notte, a me personalmente, da ogni latitudine. Allora, prima di entrare nel cuore degli argomenti, come sempre parleremo anche delle primarie americane, si sta votando a New York, tappa importantissima, vi riassumo la giornata, le notizie principali. Al Senato i voti di sfiducia al governo, Renzi dice basta con la barbarie del giustizialismo, e sulle riforme le opposizioni depositano le firme per il referendum. L'inchiesta sul petrolio, l'Eni annuncia uno stop ai contratti con i fornitori, la compagnia precisa che andranno in cassa integrazione 354 lavoratori. Pensioni, il ministro Padoan apre a possibili cambiamenti, il presidente dell'INPS Boeri torna a sollecitare flessibilità, dice, o perdiamo i giovani. I nati nel 1980 rischiano ad andare in pensione a 75 anni. Immigrazione, braccio di ferro tra Unione Europea e Turchia, senza visti, stop all'accordo, e per l'allarme terrorismo, pioggia di smentite sull'allarme relativo alle nostre spiagge. Le primarie americane, si vota a New York, mai così importanti le primarie da 40 anni per i repubblicani. Il processo per la morte di Ciro Esposito, il PM chiede l'ergastolo per l'ultrà giallo rosso, De Santis urla siete buffoni. Lutto nel mondo dello sport, travolta da una valanga è morta a 21 anni la campionessa mondiale dello snowboard Estelle Ballet. Calcio, in campo Napoli-Bologna per l'anticipo di Serie A. Ah, vogliamo sentire Zanda che cosa dice del Partito Democratico, visto che vi dicevo è ancora in corso la discussione in Senato sulle due mozioni di sfiducia contro il governo. Sentiamo Zanda. Voi sapete chi era Meucci Ruini? La mozione di sfiducia era, lo cito, una procedura speciale ed eccezionale, non solo per rendere meno instabili i governi, ma per evitare discussione all'infinito. Ruini temeva che con le mozioni di sfiducia ogni parlamentare si sentisse in diritto di dire la sua, introducendo, cito ancora Ruini, discussioni panoramiche, su tutto ciò che avviene in Italia e nel mondo. Zanna, del PD che diciamo in linea con Renzi dice sono inutili e troppo frequenti queste mozioni di sfiducia. Poi naturalmente ci torniamo tra poco. Nel frattempo, a proposito dell'inchiesta sul petrolio, l'Eni annuncia uno stop ai contratti con i fornitori. Sono in corso di consegna le lettere di sospensione contrattuale e degli ordini di lavoro con i fornitori del centro di Viggiano in provincia di Potenza dell'Eni, bloccato dal 31 marzo scorso in seguito all'inchiesta sul petrolio in Basilicata, lo ha annunciato l'Eni, precisando che nel centro lavorano attualmente 354 dipendenti, per i quali oggi la compagnia ha annunciato ai sindacati l'avvio delle procedure di riallocazione e contestualmente quelle di richiesta della cassa integrazione. E questa mattina ci sono state le audizioni sul documento di economia e finanza. Ha parlato anche il ministro Padoan, aprendo sulle pensioni. Interviene in Parlamento il ministro dell'economia e davanti a deputati e senatori scatta un'istantanea sullo stato di salute del sistema paese. Nel 2015, dopo 3 anni consecutivi di contrazione, l'economia italiana è tornata a crescere, dice Padoan, e nel 2016 la crescita continuerà e si consoliderà. Confermata poi l'intenzione del governo di sterilizzare per intero le clausole di salvaguardia per il prossimo anno. Quanto alle pensioni, Padoan annuncia: io sono sicuramente favorevole a un ragionamento complesso e sono sicuramente aperto a fonti di finanziamento complementari. Sempre sulle pensioni la stoccata quindi del presidente dell'INPS Boeri, che dice: abbiamo trovato tantissimi ostacoli, soprattutto per l'invio delle buste arancioni, perché c'è stata paura nella classe politica che dare queste informazioni la possa penalizzare. Quindi la Corte dei Conti, il contesto è positivo ma i rischi aumentano, per ridurre le tasse va rivisto l'intero sistema tributario. Infine l'Istat serve accelerare sulla crescita, più di 1 milione di minori in condizioni di disagio. Vincenzo Miglietta, Radio 24, il Sole 24 ore, Roma. E alla politica polemicamente si è rivolto il presidente dell'INPS Boeri, sottolineando di aver trovato ostacoli per l'invio di quelle famose buste arancioni con cui l'INPS diffonde le proiezioni sulla pensione futura per ognuno. Per Boeri ha pesato, così ha detto, la paura di essere puniti sul piano elettorale. Il numero uno dell'istituto ha parlato con preoccupazione anche dei giovani. Oltre le polemiche, il presidente dell'INPS coglie l'occasione all'Università Cattolica per parlare di giovani. L'INPS ha studiato la storia contributiva della generazione 1980, prendendo a riferimento un universo di lavoratori dipendenti, ma anche artigiani, ed è emerso come per un lavoratore tipo ci sia una discontinuità contributiva, legata probabilmente a episodi di disoccupazione, di circa 2 anni. Questo vuoto pesa sul raggiungimento delle pensioni, che a seconda del prolungamento dell'interruzione può slittare fino anche ai 75 anni, ha detto il numero uno dell'istituto. Anche per questo sarebbe necessario introdurre la flessibilità in uscita nel sistema pensionistico in tempi stretti. I giovani sono molto penalizzati, ha ribadito Boeri, e dato il livello della disoccupazione giovanile c'è il rischio di avere intere generazioni perdute all'interno del nostro paese. Sul part-time in uscita per chi è vicino alla pensione, Boeri ha ricordato che si tratta di una sperimentazione e come tale va studiata. Comunque ha spiegato: ci sono dei limiti di stanziamento, quindi non potranno esserci più di 30.000 lavoratori nel giro di 3 anni. Valeria De Rosa, Radio 24, il Sole 24 ore. E sempre in primissimo piano c'è il tema dell'immigrazione. Adesso c'è un braccio di ferro tra l'Unione Europea e la Turchia sui visti, con Ankara che spinge per ottenere la facilitazione dei visti per i turchi che vogliano viaggiare in Europa, e la Commissione che sostiene di non voler fare sconti. Nel giorno dell'incontro a Strasburgo fra il primo ministro turco Davutoglu e il presidente della Commissione Europea Juncker, il presidente turco Erdogan ha lanciato la sua ultima provocazione, dicendo: l'Unione Europea ha bisogno della Turchia più di quanto la Turchia non abbia bisogno dell'Unione Europea. Ed è destituito di ogni fondamento l'allarme lanciato dal tabloid tedesco, dal giornale tedesco Bild, sul possibili attacchi terroristici sulle spiagge del sud Italia, Francia e Spagna. Prima ha smentito l'intelligence, poi i ministri Franceschini e Alfano, e sentiamo proprio Alfano. Io non vorrei che ci fosse un allarmismo capace di danneggiare il nostro turismo senza aggiungere nulla in termini di sicurezza. Noi stiamo facendo un lavoro di prevenzione che consiste in intercettazioni, consiste in perquisizioni personali, controllo di navi, controllo di veicoli, espulsioni di soggetti che hanno dato prova di radicalizzazione, e fin qui la prevenzione ha funzionato. Quindi io vorrei sottolineare che il nostro è un paese sicuro fin qui, in un contesto in cui il rischio zero non esiste. E a dispetto degli allarmi ingiustificati, sono positivi comunque i dati sul turismo nel nostro paese. Oggi sono stati diffusi quelli relativi alle città d'arte. Le città d'arte sono da sempre uno dei punti saldi del turismo italiano, ma negli ultimi 20 anni questo modo di passare le vacanze è cresciuto a un ritmo del 3,5% annuo, generando una spesa complessiva di oltre 16 miliardi, di cui 12 da parte dei turisti stranieri. Sono alcuni dei dati elaborati dal Centro Studi Turistici di Firenze, annunciati alla presentazione della 20ª edizione della Borsa del Turismo delle 100 città d'arte in maggio a Bologna. La città con la crescita maggiore? Padova, più 118%, seguita da Venezia, più 110%, e Roma, più 106%. In classifica poi Napoli, Torino, Verona, Bologna, Pisa, Firenze e Siena. La crescita del turismo delle città d'arte va di pari passo con la crescita dei visitatori nei musei statali italiani. Dal 1995 i visitatori sono cresciuti del 75%. Solo nel 2015 l'aumento nei musei statali è stato del 6,2% rispetto all'anno precedente. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Allarghiamo i nostri orizzonti, andiamo alle primarie americane, altra tappa importantissima. Si sta infatti votando in queste ore a New York. Mai così importanti sono state le primarie da 40 anni a questa parte per i repubblicani, però più tardi qui a Effetto Notte ci colleghiamo direttamente con la Grande Mela per capire come stanno andando i voti. Nel frattempo, come vi ho detto, qui si continua in Senato la discussione sulle due mozioni di sfiducia nei confronti del governo. Il terremoto in Ecuador, ieri ci siamo collegati direttamente in Ecuador con un portavoce dell'organizzazione non governativa Oxfam e anche con un ristoratore italiano che lì da 30 anni ci raccontavano un po' la terribile situazione che c'è nel paese per il violento terremoto. Adesso le vittime sono salite a più di 400 e ci sono più di 2500 feriti. Il Ministero degli Esteri italiano ha deciso di destinare un contributo multilaterale di emergenza del valore di 500.000 euro a favore della Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. E c'è ancora un meteo da record, ormai da diversi mesi siamo abituati a sentire questi record. Il mese scorso, quello di marzo, è stato il più caldo marzo mai registrato dal 1880, è l'11° mese consecutivo nel corso del quale un tale record è stato battuto. Lo dice l'Agenzia Americana Oceanica e Atmosferica, che ha precisato che in un rapporto che la temperatura media mondiale sulla superficie del pianeta nel marzo 2016 è stata la più elevata per il mese di marzo negli annali delle statistiche delle temperature mondiali della NOAA, che misura le temperature dal 1880. La temperatura media è stata di 1,22 grado superiore alla media. E c'è purtroppo da segnalare questo lutto nel mondo dello sport. La 21enne snowboarder svizzera Estelle Ballet, campionessa mondiale di snowboard estremo, è morta dopo essere stata travolta da una valanga mentre stava effettuando delle riprese video a Orsière, comune svizzero del canton Vallese. La Ballet aveva preso tutte le precauzioni con casco, airbag, rilevatore di valanghe, rivelatosi però purtroppo inutili. E poi c'è il processo per la morte di Ciro Esposito. Oggi sono arrivate le richieste da parte dell'accusa al processo contro Daniele De Santis, l'ultra romanista imputato per la morte del tifoso napoletano Esposito. Il PM ha chiesto l'ergastolo, De Santis ha urlato: siete dei buffoni. Poi ci torniamo con Dario Ricci. Intanto però Dario ci aggiorna sull'anticipo di Serie A che c'è oggi, Napoli-Bologna, è vero Dario? Sì Roberta, siamo già al 26esimo al San Paolo, il Napoli in vantaggio per 1-0, la rete al 10° minuto di Manolo Gabbiadini, perfetto alter ego di Higuain nell'occasione, nell'insaccare alle spalle del portiere del Bologna il preciso assist di Mertens. Quindi Napoli in vantaggio per 1-0, un successo sarebbe importante per mantenere in vita sia le residue speranze di scudetto, ma insomma adesso alla Juventus manca solo la matematica, viene da dire, sia anche per tenere lontana quella Roma che potrebbe insidiare il secondo posto dei partenopei, e lunedì ci sarà proprio Roma-Napoli. Bene, grazie Dario Ricci, poi ci risentiamo. E adesso, prima di aggiornare chi sta viaggiando e fare una prima pausa, volevo leggere qualche vostro messaggio. Stanno andando moltissimi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia attraverso il numero 349 238 6666. La domanda che vi ho posto questa sera in merito alle votazioni che sono in corso, anzi ancora discussione in realtà, sulle mozioni di sfiducia nei confronti del governo. Renzi ha detto: è tutta una sceneggiata, è inutile, perché tra l'altro non ci sono i numeri, lo fate solo per usare il Senato come cassa di risonanza. Secondo voi, quando si sa anche che non ci sono i numeri, i voti necessari, è comunque importante, utile presentare delle mozioni di sfiducia oppure è tempo perso? I vostri messaggi. Allora, Claudio da Roma dice: è una sceneggiata ma fa rumore, fa scena, tiene alto il volume e una parte dell'elettorato a bocca. Poi ci si lamenta che il Parlamento perde tempo. Giovanni, Roberta, scusa, qui Renzi vuole governare, andare, e lo vuole pure fare senza opposizione, francamente ridicolo. Poi Stefano, sulla pagina Facebook: se uno è convinto di avere valide motivazioni, proporre mozioni è indispensabile al di là dei numeri, questa è la democrazia, peccato che i politici italiani l'abbiano da tempo scordato. Vado anche su WhatsApp: certo che ne vale la pena, abbiamo pur sempre un governo illegittimo, questa è un'accusa che muovono le opposizioni, poi ritorniamo anche su questo tema. E un altro ascoltatore: penso che dei politici seri proporrebbero la sfiducia solo se avessero la certezza di raggiungere il risultato. Ci sentiamo un momento, continuate. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presento. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E tra poco ve le ricordo le notizie più importanti dall'Italia e dal mondo. Vi ho appena fatto il riassunto dei fatti principali di questa giornata. Adesso cominciamo, come al solito, a entrare nel cuore degli argomenti con gli ospiti e naturalmente continuano ad arrivare i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666, che è il numero per gli SMS e per i vostri WhatsApp. E la riflessione che vi sottoponevo questa sera, anzi siete voi che dovete riflettere, io vi ho posto la domanda, è di fronte a Renzi che dice: ora che ancora sono in discussione, ecco, vedo Grasso, sentiamo cosa sta dicendo Grasso, Presidente del Senato. Sulla mozione numero 551 Catalfo ed altri, i senatori favorevoli alla mozione di sfiducia risponderanno sì, i senatori contrari risponderanno no, i senatori che intendono astenersi. Ah, insomma, sta annunciando che iniziano i voti. Finora c'è stata la discussione sulle due mozioni di sfiducia contro il governo presentato dalle opposizioni, adesso iniziano le votazioni. Quello che vi chiedo è: Renzi ha detto questa è soltanto una sceneggiata, l'ennesima, siamo ormai abituati alle mozioni di sfiducia presentate un giorno sì e pure l'altro, quando sanno benissimo che non ci riescono in questo modo a mandare a casa, anche perché non ci sono i voti. Secondo voi è comunque utile e importante presentare, quando si ritiene opportuno, mozioni di sfiducia nei confronti del governo, o quando si sa che poi cadono nel nulla è tempo perso? E continuo a leggere i vostri messaggi, per esempio dalla pagina Facebook. Christian dice: è insensatissimo, se non fosse il gesto che chi si oppone deve comunque proporre per tenere in piedi un proprio riconoscimento, la mossa conta più del suo esito. Tommaso: quando non bastano tutti questi scandali per far cadere il peggior governo di sempre, credo sia arrivata l'ora che lo faccia il popolo. Giorgio: ha ragione Renzi, in fin dei conti del resto queste opposizioni hanno pochissima autorevolezza, anche l'esecutivo non è da meno in diverse occasioni. E poi ancora i vostri messaggi e i WhatsApp. Mi muovo tra vari social, quindi ogni tanto perdo qualche passo. Andrea da Bologna: per questo PDC ci vuole la rimozione di sfiducia. Poi: quanto ancora dovremo sopportare l'arroganza di Renzi? Un altro messaggio: ben vengano le mozioni di sfiducia, almeno c'è qualcuno che ha il coraggio di ribellarsi a questa dittatura mascherata da democrazia. Poi gli altri messaggi che stanno arrivando tra poco, ma vi ricordo, prima di salutare il primo ospite, quali sono le notizie più importanti della giornata. Sfiducia al Senato, iniziati i voti, Renzi dice basta barbarie giustizialista, il governo ascolta tutti poi decide e il nostro programma è stato realizzato. Boeri, presidente dell'INPS, di nuovo sollecita a cercare a introdurre una flessibilità con le pensioni, dice: c'è il rischio di una generazione perduta, attraverso delle simulazioni pare che chi è nato negli anni 80 potrebbe andare in pensione a 75 anni, quindi prospettive straordinarie. Braccio di ferro sui migranti tra Unione Europea e Turchia: la Turchia chiede una liberalizzazione, una velocizzazione dei visti per i cittadini turchi per girare in Europa, però la Commissione Europea non vuole fare sconti e quindi c'è questa tensione. IPM al processo per la morte di Ciro Esposito chiedono l'ergastolo per De Santis, lui urla: siete dei buffoni, questo è l'ultra giallorosso imputato per questo omicidio. E poi ci sono le primarie negli Stati Uniti in vista delle presidenziali di novembre. Oggi sta votando New York, poi ci colleghiamo direttamente con la Grande Mela. E Eni fa sapere che dopo il sequestro degli impianti petroliferi di Viggiano chiederà la cassa integrazione per 354 dipendenti. E poi questo lutto nello sport: una valanga uccide Estelle Ballet, campionessa mondiale di snowboard estremo. Saluto subito Alessandro De Angelis, commentatore politico dell'Huffington Post. Bentornato Alessandro, ciao. Bentrovati, buonasera. Tu non so se sei ancora lì dalle parti del Senato, penso di sì. Siamo qui, facciamo tardi. Ecco, bravo, mi sa che si fa tardi, si pensava che entro effetto notte si potesse avere i risultati, non lo so a questo punto. Che dici? No, intorno alle 10:30. Ce la si fa. Anche perché sono due le mozioni di sfiducia. Sì, due le mozioni di sfiducia. Quella di Forza Italia e quella di 5 Stelle. Quindi ce n'è. Insomma, queste due mozioni di sfiducia presentate appunto dalle opposizioni contro il governo a seguito dell'inchiesta sul petrolio, del coinvolgimento della ministra Guidi, che è ex ministra, che ha lasciato in seguito all'inchiesta di Potenza, della procura di Potenza su Tempa Rossa. Allora, abbiamo sentito adesso dei brevissimi passaggi, adesso ne sentiamo altri. Per esempio Vincenzo Sant'Angelo del Movimento 5 Stelle, sentiamo che cosa dice a Renzi nella discussione che ha preceduto ora le votazioni. Presidente Renzi, al suo insediamento la definì la Vanna Marchi della politica. Purtroppo per gli italiani il tempo ci ha dato ragione. Mi creda, glielo dico senza polemica. Lei ci ha stancato. Presidente Renzi, le do soltanto un ultimo consiglio: prenda i suoi quattro stracci, raduni tutta la sua banda di governo e vada fuori! Fuori! E poi Centinaio della Lega. Oggi come oggi venire in aula, Presidente, e cercare di convincere i colleghi senatori della bontà della nostra mozione di sfiducia penso che possa essere considerata una mission impossible. E quindi quello che aspettiamo e quello che ci aspettiamo è che la mozione di sfiducia la presentino i cittadini italiani a ottobre nei confronti di questo governo. Quindi Alessandro De Angelis, già Centinaio, capisce che non ci sarà l'esito voluto dalle opposizioni. Secondo te, siccome Renzi appunto ha detto è una sceneggiata, è inutile, le opposizioni la presentano un giorno sì e l'altro pure, siamo abituati alle mozioni di sfiducia, sono inutili, sono solo una cassa di risonanza, usano la cassa di risonanza del Senato per farsi pubblicità, per piantare una bandierina. Secondo te, prima di tutto, vale la pena o no comunque presentare una mozione di sfiducia anche quando si sa che finisce nel nulla? Ma guarda, io ti do un dato statistico. La scorsa legislatura, che non è che non c'era opposizione a Berlusconi, no? C'erano inchieste pesanti su tutto, c'era un'opposizione molto dura a Berlusconi, furono anni accesi, di mozioni ne furono presentate in tutta la legislatura 7. In questa ne sono state presentate 40. Ecco, cioè normalmente le mozioni di sfiducia vengono presentate quando tu concretamente puoi far dimettere un ministro, magari individuali, oppure si può provocare una crisi di governo o vuoi il voto. In questa legislatura vengono usate come un blog o come un talk show, per intenderci. Gli interventi che hai mandato prima rivelano esattamente questi, quindi come un modo per andare sui giornali, per parlare di più al paese. Secondo me è perfettamente inutile, se vuoi la mia opinione, diciamo da cronista che le segue da tempo. Se il Parlamento non è un set da talk show, non ne vedo francamente l'utilità. L'esito non ci vuole la zingara, è scontato di questa mozione di sfiducia. C'è un ascoltatore che scrive: ho la sensazione che la crisi del governo sia irreversibile e alle amministrative ci sarà una dura conferma di quello che dico nonostante il patto del Nazareno bis in soccorso di Renzi, perché c'è l'accusa ancora da parte dell'opposizione che Verdini salverà il governo Renzi. Sono necessari i voti dei verdiniani o, come è successo in votazioni precedenti, in realtà, come ha detto Renzi, sono un'aggiunta ai verdiniani? No, credo che siano un'aggiunta anche nella votazione di oggi, però è un'aggiunta che comunque ha un significato politico, cioè anche qui è finita l'ambiguità che Verdini non fa parte della maggioranza. E Verdini, che ieri ha ricevuto, tra l'altro ho perso il conto dei miei a giudizio, credo più di 4, insomma, e in processi abbastanza delicati, vota ormai stabilmente le fiducie. Oggi il suo capogruppo Barani ha detto: noi siamo i pretoriani di questo governo. Lo chiamano apertamente loro. E anche Renzi li dichiara amici, sentiamo. Come potete contestare agli amici di NCD prima e poi agli amici di ALA che hanno sostenuto il percorso delle riforme costituzionali che voi stessi avevate immaginato, di rimanere semplicemente fedeli a un patto al quale anche voi vi eravate legati e dal quale siete venuti meno non per esigenze di moralità politica, ma per correttissime valutazioni di opportunità. Avete cambiato idea voi, non hanno cambiato idea gli altri, e di questo dovrete rendere conto alla vostra gente. Così dice Renzi rivolto a Forza Italia, e Romani in Senato ha riconosciuto il senatore Romani di Forza Italia, dice: è vero, abbiamo cambiato idea, il patto del Nazareno, quello tra Forza Italia e governo Renzi, si è rotto perché abbiamo cambiato opinione, ma non sulle riforme quanto sulla scelta del metodo non condiviso per l'elezione del Presidente della Repubblica. Quindi si sono portati dietro, diciamo, questo peccato originale, questo rancore, come vogliamo chiamarlo, per l'elezione di Mattarella che non era stata concordata. Ha ragione Renzi sul fatto che hanno cambiato idea, anche in maniera abbastanza incomprensibile, perché insomma al Quirinale, come si vede dai mesi successivi, non c'è andato un pericoloso bolscevico, quindi non si capisce perché Berlusconi ha fatto saltare. Il dato di giornata per quanto riguarda le opposizioni però a mio giudizio è un altro, e cioè che oggi tu hai uno spettacolo abbastanza bizzarro e surreale, cioè Forza Italia che vota la mozione dei 5 Stelle di sfiducia al governo e i 5 Stelle che votano, oltre alla loro, anche quella di Forza Italia, no? Ora, stiamo parlando di mozioni che sono opposte nei contenuti. Quella dei 5 Stelle è una mozione ambientalista e giustizialista. Quella di Forza Italia è una mozione molto generica, molto pro trivelle, fra l'altro molto industrialista e garantista sui giudici. E i due partiti, insomma, tu ti ricordi come Grillo chiamava Berlusconi? Lo chiamava lo psiconano, sì. E Berlusconi diceva che Grillo era come Hitler, insomma, no? Ecco, ora, psiconano e Hitler oggi si sono votati reciprocamente le mozioni unite dall'essere contro Renzi. E questi sono i miracoli della politica, comunque, lo sappiamo. Sì, dall'essere contro Renzi. Cioè, noi siamo stati per 20 anni a dire se bisognava stare tutti contro Berlusconi o se serviva un disegno per sconfiggerlo. Oggi c'è stata una grande ammucchiata contro Renzi, e io credo che questo dia a Renzi un set perfetto, perché questa sera uscirà vincitore, perché vincerà sulle mozioni di sfiducia, come è uscito vincitore sul referendum di domenica. Poi non c'è dubbio che le amministrative sono un'altra partita, però io credo che se Brunetta, Salvini, Di Maio e i Grillini e quelli della sinistra si mettono a parlare allo stesso modo, danno un'idea della mucchiata che aiuta il Presidente del Consiglio. Senti, Alessandro De Angelis, comunque diciamo che domenica sono andati a votare quasi 16 milioni di cittadini in ogni caso, no? Questo può essere questo un segnale importante o negativo per quanto riguarda Renzi, per esempio per il referendum costituzionale che ci sarà a ottobre, o come lo vedi tu? Beh, il segnale politico, se viene eletto come aver votato più contro Renzi che non sulla questione trivelle, come dice qualcuno, poi non si sa se è un'interpretazione corretta. Io il segnale politico indubbiamente c'è, dopodiché anche parlando con un po' di analisti, sondaggisti in questi giorni che ci ho un po' lavorato, più esperti di me dicono che insomma non ogni partita fa un po' storia a sé, cioè è vero che c'è stato il voto contro il governo, no? Però non è del tutto automatico che il voto sulle trivelle diventi poi un voto contro la riforma. Sai, contro la riforma io credo che dipenda molto dal clima, no? Cioè si vota su Renzi o si vota sulla riforma, che Renzi ha un'arma forte in mano, che è il fatto che ha abolito il Senato, no? E appunto dall'altro lato c'è la mucchiata. Se si politicizza il voto diventa un'altra partita. Certo è che tu hai comunque una massa critica di 13 milioni di persone che sono andate a votare, hanno votato in maniera critica rispetto al Presidente del Consiglio che aveva detto di stare a casa, e non c'è dubbio che non puoi dire che il 70% che non hanno votato è il 76% di consenso a Renzi. Certo. Non hanno votato perché ormai il 30% di questa democrazia non vota più. Alle scorse europee più o meno la soglia fu del 58% dei partecipanti, quindi molto, molto bassa, e per molti il quesito era astruso e incomprensibile, neanche lo sapevano. Il dato significativo è invece che credo le regioni interessate dal problema trivelle, quelle più dove la dinamica ambientale è più sentita, e lì c'è stata una partecipazione alta, vedi Basilicata e vedi Puglia per esempio, no? Sì. Alessandro, stavo pensando, fra le vari interventi che ha fatto Renzi, mentre ricordo ascoltatrici e ascoltatori che si sta man mano votando in Senato per le due mozioni di sfiducia nei confronti del governo, è tornato però ad attaccare di nuovo in parte, diciamo, la magistratura, dicendo ci sono stati giudici eroi, ma c'è anche la barbarie del giustizialismo. Sentiamo questo passaggio. Questo paese ha conosciuto giudici, figure di giudici eroi che hanno perduto la vita nella lotta contro la mafia, contro la camorra, contro la corruzione, contro l'illegalità. Ma questo paese ha conosciuto anche negli ultimi 20 anni, negli ultimi 25 anni, pagine di autentica barbarie legate al giustizialismo. Ultimamente interviene su questo tema Renzi, no? Abbastanza duramente. Vedi, è stato molto attento a non fare un frontale con procure, no? Non ha, per esempio, non ha detto la procura di Potenza come altre volte che si ricordi aveva suscitato. È stato più generico. Per poi precisare. Siccome ha parlato di barbarie, io credo che si riferisse soprattutto alle intercettazioni, no? Che vengono pubblicate violando il segreto istruttorio, e non so, a pensar male, sai, si fa peccato, ma certe volte ci si indovina, come diceva, e se questo passaggio è propedeutico un intervento, un'accelerazione sul tema delle intercettazioni. Sì, questo potrebbe essere. Ora, a proposito di opposizioni, le mozioni di sfiducia, sentiamo questo passaggio di Salvini che ci porta, diciamo, un po' fuori da quello che sta succedendo, e ritorniamo anche su, in vista delle amministrative, per esempio, quello che potrebbe succedere. Sentiamo questo passaggio di Salvini che a un certo punto si chiede: ma che cos'è oggi come oggi il centrodestra? Nonostante le cose in Italia non vadano bene, io sono contento, perché più giro l'Italia da nord a sud, oggi sono stato a Latina, domani sono a Grosseto, giovedì a Terni, poi ancora a Roma, vedo la gente ha voglia di cambiare, si sveglia, si informa, Renzi ha stufato. Il centrodestra in questo momento è una cosa che non si capisce cos'è. Ecco, a questo punto, al di là di tutto, Salvini si riferisce anche, non so se sono rumors queste che Bertolaso potrebbe fare un passo indietro a Roma e adesso bisogna... Questa è una telenovela meravigliosa ormai. No, dunque oggi proposta. Bertolaso ha incontrato Berlusconi a Palazzo Grazioli e trapela che è confermato. E dopo che ieri c'è stato tutto l'interesse per questi famosi sondaggi che sembrano un po' l'oracolo di Delfi, della Ghislevi, e in cui Bertolaso andrebbe malissimo, insomma, Bertolaso è stato confermato e faranno una manifestazione con Berlusconi, si faranno vedere nei prossimi giorni pubblicamente insieme. E insomma, c'ha ragione Salvini, e non si capisce che cos'è questa scelta, che cos'è questo centrodestra, se Berlusconi. Sai perché non si capisce? Perché è chiaro che Roma è un test nazionale, insomma, no? Roma non è Rocca Cannuccia, un paesello. Roma è una grande questione nazionale dove si misura una politica di alleanze, una proiezione futura di ciò che sarà il centrodestra. Ed è evidente che Berlusconi, scegliendo Bertolaso, rompe con l'asse, con Salvini, la Meloni, con cui però al tempo stesso è alleato al nord, no? E quindi è una gran confusione, una gran confusione. C'è un elemento molto personale, io credo, di Berlusconi, che tiene il punto su Bertolaso perché non gli è piaciuta come Salvini e Meloni. Questi giovanotti non possono trattarmi così, te la dico in breve, no? Adesso io lo faccio vedere io, perché poi Berlusconi non fa l'unica cosa che si farebbe in questa situazione, no? Cioè dire va bene, avviamo un processo democratico, facciamo le primarie, facciamo selezionare al popolo di centrodestra, che guarda che il popolo di centrodestra non è che è scomparso, c'è ancora nel paese. E tu vedi a Milano dove hanno azzeccato il candidato, l'hai visto i sondaggi di Pagnoncelli, dice che è competitivo, no? Ecco, solo che Berlusconi ha una visione padronale della politica e soprattutto pensa che dopo di lui non ci sarà il diluvio e quindi non avvia il processo democratico di successione. E allora stiamo là ancora con Bertolaso. Poi però ti dico anche, io non so se questo è un danno per la Meloni, perché se è vero quello che dice Salvini, che l'Italia sta cambiando, la gente ha voglia di novità, io non lo so se farsi fotografare con Berlusconi poi quanti voti possa portare, quanti te ne togli, se vuoi prendere l'elettorato grillino e di protesta, per esempio. Alessandro, un'ultima cosa, gratifichiamo questo ascoltatore, chiediamo le idee. Luca da Torino dice: il referendum di ottobre sarà confermativo, mi pare di sì, no? Sulla riforma costituzionale. Dice: conterà il quorum? Mi sembra di no, che in quel caso non conti il quorum, giusto? No, ecco. No. Vince chi prende un voto in più. E là c'è l'insidia per Renzi, che dovrà mobilitare molto, perché appunto al referendum delle trivelle si è manifestata una massa critica, lui dovrà prendere più, quindi deve mobilitare molto per la sua sfida. Grazie Alessandro De Angelis, a presto. Grazie a voi. Ciao Alessandro. Grazie a voi, a presto. Ciao. Ancora lo lasciamo al Senato, quindi Alessandro, stanno ancora votando e quindi andranno oltre effetto notte, sapete che poi ci salutiamo alle 22. Ancora qualche vostro messaggio tra i tanti che arrivano sulla pagina Facebook di effetto notte e al numero 349-238-6666, che è quello per gli SMS e per i WhatsApp. Giorgio dice: ha ragione Renzi, in fin dei conti, del resto queste opposizioni hanno pochissima autorevolezza, anche l'esecutivo non è da meno in diverse occasioni. Stefano: forse sarebbe il caso di smetterla con questa gazzarra isterica e tornare a parlare di decisioni da prendere. Roberto: inutile se non ci sono i numeri, è la mozione di sfiducia, inutile se non ci sono i numeri, forse direi meglio votare leggi dato che sono lautamente retribuiti, farle non per giocare a nascondino con i voti di sfiducia di scarsa se non nulla probabilità di riuscita, eccetera eccetera. Giovanna: finché sono motivate vanno presentate le mozioni di sfiducia, casomai soffermatevi sulle motivazioni di chi vota contro, forse per la poltrona. Ecco, quindi continuate a rispondere a questa domanda: secondo voi anche quando non ci sono i numeri per far passare una mozione di sfiducia contro il governo vale comunque la pena di presentarla? Pagina Facebook di Effetto Notte, 349-238-6666, l'altro canale per intervenire. Ci sentiamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se siete ascoltando Effetto Notte, se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, con la giusta conduttrice, Roberta Giordano con voi. E stavo guardando, in effetti, un po' distratta l'immagine del Senato, perché è iniziata la prima chiama per votare le mozioni, le due mozioni di sfiducia nei confronti del governo. Vogliamo sentire se siete un po' di atmosfera, un po' di ambiente, come si dice? Cardiello sì. Cardinali. Si sente? Cardinali chiamando. No. Cariti. Tutto un via vai di senatori e senatrici stanno votando, ma abbiamo detto che l'esito di questi voti di sfiducia arriverà oltre effetto notte, quindi lo sentirete poi nelle edizioni del giornale radio di Radio 24. Ora voi intanto continuate a scrivere le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di effetto notte al 349-238-6666 sulla domanda che vi ponevo questa sera rispetto alla dichiarazione di Renzi, che ha detto: queste mozioni arrivano troppo spesso, sono troppo frequenti, ormai ci siamo abituati, sono una sceneggiata, sono inutili perché non riuscite a mandarci a casa, anche appunto perché mancano i voti. Secondo voi vale comunque la pena di presentare delle mozioni di sfiducia anche quando si sa che per questioni di numeri non andranno in porto? Chiede un ascoltatore, anzi chiede Angela: e chi lo dice che non passerà il notaio del Nazareno? Ma non dicono un po' i numeri, Angela, insomma, siamo aperti a ogni sorpresa. Alessandro dice: le ripetute vane mozioni di sfiducia contro il governo dimostrano solo una cosa, la debolezza e l'inconsistenza delle opposizioni, virgo, hanno tempo da perdere, tanto non sono obbligati a portare a casa risultati, vengono pagati comunque profumatamente. Noi ci dobbiamo anche occupare di altro adesso, però vi ricordo velocemente le notizie più importanti della giornata. Al Senato in corso i voti di sfiducia al governo, Renzi dice basta con la barbarie del giustizialismo e sulle riforme le opposizioni depositano le firme per il referendum. L'inchiesta sul petrolio, l'Eni annuncia uno stop ai contratti con i fornitori, la compagnia precisa che andranno in cassa integrazione 354 lavoratori. Pensioni, il ministro Padoan apre a possibili cambiamenti e il presidente dell'INPS Boeri torna a sollecitare flessibilità, dice: o perdiamo i giovani, i nati nel 1980 rischiano di andare in pensione a 75 anni. Poi ci sono le primarie americane, di cui parleremo tra pochissimo, e lutto nel mondo dello sport, travolta da una valanga, è morta a 21 anni la campionessa mondiale di snowboard Estelle Ballet. Quindi dalle votazioni di sfiducia contro il governo Renzi andiamo invece negli Stati Uniti con il nostro Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore. Ciao Marco. Ciao. Perché questa è un'altra tappa importante delle primarie americane in vista delle presidenziali di novembre. Si sta votando a New York, nella tua città, per la prima volta in questa corsa alla Casa Bianca. Tutti i più importanti candidati sono di New York, no? Sanders, Trump e Clinton, Marco. Sì, New York quest'anno, come non accadeva da quasi 40 anni, svolge un ruolo molto, molto significativo nella corsa alla nomination dei candidati presidenziali. Il risultato della primaria di New York sarà influente, come ricordavi tu, tre dei candidati, i due democratici e Donald Trump, hanno forti radici newyorkesi, alcuni di nascita come Sanders e come Donald Trump, altri per adozione. Clinton è stata senatrice per due mandati, eletta dallo stato di New York, ma anche perché questa, diciamo, è una delle ragioni, ma l'altra è una ragione politica, e cioè che la corsa resta incerta. Normalmente quando si arriva alle primarie di New York il vantaggio dei candidati così front runner, dei favoriti, è chiaro ed è indiscutibile. Ecco, questa volta è un po' meno così. Andranno avanti ancora per qualche ora, o a che punto siamo, Marco? Sì, allora andranno avanti, chiudono i seggi a New York delle primarie, chiudono particolarmente tardi, chiudono alle 9 ora locale, quindi verso le 3 ore di notte italiana. Ora italiana, quindi una lunga giornata di voti, affluenza anche a New York, come già in molti altri stati, record proprio per la tensione che circonda la battaglia per la nomination in entrambi i partiti, e abbastanza, diciamo, incertezza. I favoriti a vincere sono Hillary Clinton per i democratici, per il forte appoggio istituzionale e delle minoranze etniche a New York, e Donald Trump perché è il candidato repubblicano con forti radici newyorkesi ed è chiaramente il favorito. Ma resta da vedere se lo sfidante di Hillary, Bernie Sanders, che ha avuto delle dimostrazioni di consenso popolare molto forte con rally, manifestazioni di piazza molto significative con decine di migliaia di persone proprio a New York, ecco, se riuscirà a colmare quello che al momento è un distacco intorno ai 10-15 punti percentuali, e se dall'altra parte i rivali di Donald Trump, cioè John Kasich e Ted Cruz, riusciranno in qualche modo a limare un pochino il vantaggio di Trump, che potrebbe al momento aggiudicarsi forse il 50% dei voti e quindi anche tutti i delegati dello Stato. Quindi una corsa sempre più avvincente. Poi adesso purtroppo abbiamo poco tempo, Marco Valsania, ma la prossima volta ci spieghi anche con semplicità come si fare, come si connotano queste primarie e poi la scelta, la nomination e poi le elezioni presidenziali verso la fine di questa corsa, perché non a tutti sono chiare, è un po' un meccanismo complesso quello degli Stati Uniti. Grazie intanto a Marco Valsania da New York. Grazie a voi, volentieri. Ciao Marco, ciao. Credo sì che dobbiamo invece adesso aggiornare chi sta viaggiando con sempre i vostri messaggi. Buonasera, le mozioni di sfiducia non vanno presentate solo perché vi sia un risultato positivo, vanno presentate perché è il... Adesso apro questo WhatsApp, vediamo se lo ritrovo. È un po' sempre complicato con questi WhatsApp, perché è il compito delle opposizioni. Rita da Vimodrone, è qui in provincia di Milano. A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Vero motivo per cui l'opposizione deve continuare a cercare di tenere alto il volume sta nel fatto che la stampa, o almeno la maggioranza, è filogovernativa, scrive un ascoltatore. Voi continuate con le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666. Vi ricordo che le notizie più importanti sono che al Senato sono iniziate le votazioni per le due mozioni di sfiducia nei confronti del governo. Renzi dice basta barbarie giustizialista, il governo ascolta, poi decide, il nostro programma è stato realizzato. Il presidente dell'INPS Boeri, che dice o introduciamo per le pensioni la flessibilità o c'è il rischio di una generazione perduta, e Padoan sembra aprire degli interventi sulle pensioni. Braccio di ferro per i migranti tra Unione Europea e Turchia, la Turchia che dice senza visti più facili per i turchi, stop all'accordo. E poi il PM che chiede l'ergastolo per De Santis, l'imputato ultra giallorosso per l'omicidio di Ciro Esposito. Europa 24 notte. Parliamo di Brexit, cioè dell'uscita eventuale della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Il divorzio dall'Unione Europea è una scelta di libertà per la Gran Bretagna, mentre restare nel club dei 28 significa dover assorbire nei prossimi anni fino a 3 milioni di altri migranti. Questa è la dura replica del ministro della giustizia britannico euroscettico Michael Gove al collega anti-Brexit George Osborne dopo il rapporto del Ministero del Tesoro secondo il quale Londra, rompendo i ponti con Bruxelles al referendum del prossimo 23 giugno, andrebbe incontro a pesanti perdite economiche. Fino all'altro ieri lo sostenevano più che altro le voci fuori dall'isola britannica. Nella bozza del G20 si parlava della Brexit come di uno shock per l'economia mondiale, concetto ribadito dalla numero uno del Fondo Monetario, anche se Christine Lagarde ha usato toni più morbidi parlando di un'incertezza che pesa sull'Europa, un matrimonio che non deve finire. Con garbo anche Obama, che il prossimo 22 aprile volerà a Londra, farà presente che la capitale britannica fuori dall'Europa non sarebbe un fatto gradito a Washington. Un colpo mortale per i rapporti commerciali del Regno Unito in giro per il mondo, secondo il ministro francese Macron, che invece ha scelto la sciabola per definire una eventuale uscita degli inglesi dal perimetro di Bruxelles. Oggi siete forti perché fate parte dell'Unione, ha insistito il ministro francese, e quando per esempio discutete dei problemi dell'industria dell'acciaio con la Cina, siete credibili in quanto parte dell'Unione, altrimenti sareste completamente uccisi nei vostri interessi commerciali. Parole parecchio dure che hanno indignato euroscettici come il sindaco di Londra Boris Johnson, ma che nella sostanza assomigliano molto a quello che pensa il cancelliere dello scacchiere George Osborne. Out the facts. Britain would be permanently poorer if we left the European Union. Ieri il titolare del Tesoro ha illustrato il rapporto di 200 pagine redatto dagli economisti del suo ministero. In caso di Brexit, commercio, tassi e mutui ne risentirebbero in negativo. Vi sarebbero nuovi tagli sulla sanità e il PIL del Regno Unito calerebbe gradualmente di almeno un 6%. Lo Stato perderebbe circa 36 miliardi di sterline di entrate e ciascuna famiglia subirebbe una perdita annua pari in media a 4.300 sterline. Numeri attaccati dagli euroscettici che hanno tirato in ballo anche il complotto. Il titolare della giustizia, Michael Gove, ha accusato i colleghi di voler spaventare gli elettori come se fossero bambini. The EU is clear. It wants more power over our taxes and our banks. E oggi alla BBC, Gove ha parlato di un'Europa che vuole sempre più potere sulle tasse e le banche britanniche. Anche il Financial Times ha definito fosche le previsioni fatte circolare dal Tesoro. Insomma, una battaglia in piena regola da combattere fino al 23 giugno. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 Notte. In collaborazione con Euronet Plus. E adesso torna Dario Ricci per aggiornarci sull'anticipo di Serie A Napoli-Bologna. Come prosegue, Dario? Eccoci qua, Roberta. Siamo al secondo minuto di gioco del secondo tempo. Napoli in vantaggio per 2-0. Sempre protagonista Manolo Gabbiadini, che dopo aver siglato la prima rete ha realizzato su calcio di rigore per un netto fallo di Constanzo Calleon il raddoppio. Quindi partenopei avanti per 2-0 sugli emiliani. Dario, invece, oggi è arrivata la richiesta nel processo per l'omicidio di Ciro Esposito dell'ergastolo per l'ultra giallo rosso De Santis, no? Sì, è arrivata questa richiesta, ergastolo, è stata una udienza a tinte forti, quella che si è svolta nell'aula bunker di Re Bibbia, con De Santis che ha inveito contro i giudici e contro i PM che hanno richiesto anche una condanna a 3 anni per gli altri due imputati, lo ricordiamo, Gennaro Fioretti e Alfonso Esposito, e tifosi del Napoli accusati di rissa aggravata. Ricordiamo anche i fatti: Roberta, Ciro Esposito era stato ferito gravemente il 3 maggio di 2 anni fa, del 2014, poco prima della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Napoli, ed è poi morto dopo un'agonia di 53 giorni. Difficile comunque dimenticare quella pagina terribile del nostro calcio quella serata. Certo, però è una richiesta, vedremo poi come procede il processo. Intanto ricordiamo anche che è morta Estelle Ballet, campionessa mondiale di snowboard estremo a 21 anni, travolta da una valanga, no? Sì, un'altra notizia triste di giornata, è una ragazza di 21 anni, è vero, una grandissima campionessa, ma soprattutto una ragazza di 21 anni tradita proprio da quelle montagne che tanto amava. Nonostante pare che avesse l'attrezzatura necessaria, però evidentemente è stata tradita anche dalle temperature. Sì, per la modesta esperienza, direi anzi modestissima, ma quantomeno un pochino l'ambiente alpinistico lo frequento sotto il profilo giornalistico. Questo è un periodo della stagione davvero difficile per chi sta dalla montagna. A volte anche le precauzioni dei più esperti possono non essere sufficienti. Grazie Dario Ricci. Ciao. Grazie Dario. A voi. Noi ci risentiamo alle 22.